Prima gli ex finiani, ora l'offerta di soldi a un deputato del Partito Democratico. In Italia le migrazioni bibliche sono già arrivate da un pezzo.